Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Ogni due mesi mi dicono che crolla tutto, quindi ormai non ci penso più. Anche il Movimento 5 Stelle ogni due mesi dicevano che era finito il movimento e poi abbiamo fatto quello che abbiamo fatto. Beh, siamo in una fase importante, siamo in una fase di transizione. Insomma, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, il sottosegretario alla presidenza del Movimento 5 Stelle, Fraccaro, avete sentito, molto ottimista sulla tenuta del governo, risponde a chi gli ha chiesto, ma insomma, com'è che ogni poco escono dei parlamentari, abbandonano il Movimento 5 Stelle, anche oggi altri due, a questo punto sono 31 dall'inizio della legislatura. Fraccaro però dice, insomma, sì, vabbè, sono a volte degli scossoni, momento di transizione, però il governo, la tenuta è ottima, è molto costruttivo l'ambiente, l'atmosfera. Insomma, ne parleremo naturalmente, ci concentreremo sulla politica, anche perché c'è, dovrebbe essere ancora in corso il vertice di maggioranza per trovare una mediazione sulla riforma della prescrizione, e poi anche capiremo perché dall'inizio della legislatura sono 31 i parlamentari che per un motivo o per un altro hanno lasciato il Movimento 5 Stelle. Poi parleremo, ci collegheremo con la nostra inviata ad Auschwitz, perché siamo a pochi giorni dal giorno della memoria, e in più ci sono anche dei dati preoccupanti sull'aumento di reati legati al razzismo in Italia. Poi molti altri argomenti, naturalmente, come sempre ci collegheremo con Davos, dove c'è il forum mondiale dell'economia, c'è il GOTA della finanza e dell'economia, quelli che decidono insomma dei nostri destini. Pagina Facebook di Effetto Notte, vi ricordo intanto, per i vostri messaggi, i vostri commenti, oppure ci sono SMS e WhatsApp da inviare con le vostre riflessioni, con le vostre domande, al numero 349-238-6666. Prima però di cominciare ad affrontare gli argomenti con gli ospiti, la sintesi della giornata. Il Forum dell'Economia Mondiale a Davos: sull'ambiente si contrappongono due mondi che non si parlano. Il presidente americano Trump attacca Greta dicendo a lei, che ricorda che la casa brucia, no ai profeti di sventura, ed esalta la crescita economica dell'America. La politica italiana: vertice della maggioranza per cercare una mediazione sulla prescrizione, e intanto altri due parlamentari abbandonano il Movimento 5 Stelle. Allarme per il virus cinese, un caso negli Stati Uniti, controlli negli aeroporti, a Fiumicino uno scanner per la febbre, paura sui mercati. Aumentano i reati legati al razzismo, a poca distanza dal giorno della memoria preoccupano i dati sulla discriminazione e gli atti di violenza. Il vaccino contro l'antisemitismo, dice Mattarella, è la memoria. Verona intitola una via Giorgio Almirante, incompatibile con la mia cittadinanza onoraria, dice Liliana Segre. Cannabis terapeutica diventa gratuita in Sicilia, la regione si farà carico della spesa. Lutto nel mondo della cultura, è morto a 91 anni Emanuele Severino, era considerato uno dei più grandi filosofi, scrittori e intellettuali viventi. Partiamo quindi dal Forum dell'Economia Mondiale a Davos, in Svizzera. Sfida a distanza sul clima tra l'attivista svedese Greta e il presidente americano Trump. La giovane attivista attacca e dice: tutti parlano del clima, ma nulla è cambiato, la nostra casa è ancora in fiamme, agite per i vostri figli. Il presidente americano definisce gli ambientalisti profeti di sventura. Questo, dice, non è il momento del pessimismo sul clima. L'America è tornata a vincere nonostante la Fed, cioè la Banca Centrale Americana. Così aggiunge Trump e cita il Duomo di Firenze e Notre Dame, e a questo proposito afferma: non limitiamo i nostri sogni, ma ci faremo raccontare tutto dal nostro inviato a Davos. Nel frattempo, negli Stati Uniti è iniziata oggi al Senato la prima udienza del processo che potrebbe portare Trump all'impeachment, alla messa in stato d'accusa. Si tratta della terza volta nella storia americana. Il processo si è aperto con una preghiera e il giuramento dei senatori sulla bandiera americana. E passiamo alla politica italiana. È in corso il vertice di maggioranza sulla giustizia, in particolare sul nodo della riforma della prescrizione, sul quale si cerca una mediazione tra le forze di governo. La bozza in discussione prevede lo stop alla prescrizione per i condannati, sospensione per un tempo non superiore a 2 anni dopo l'impugnazione della sentenza di proscioglimento. Dopo cerchiamo di capire meglio. E tra l'altro, dopo il voto in giunta al Senato ieri sul caso Grigoretti, Salvini ringrazia i quasi, dice, 5.000 italiani e italiane che digiunano in segno di vicinanza e di protesta. Il presidente del Consiglio Conte attacca e dice: ha deciso tutto lui sul caso Grigoretti, e Salvini replica: ne parleremo in tribunale. Nel frattempo, come vi dicevo, altri due parlamentari hanno lasciato il Movimento 5 Stelle, e su tutto questo ci aggiorniamo tra poco. Siamo ai dati dell'OSCA, dell'Osservatorio Interforze per la sicurezza contro gli atti discriminatori. I cosiddetti reati di odio, quelli mossi da razzismo o discriminazione, ad esempio religiosa o sessuale, sono aumentati in Italia dai 730 del 2016 ai 1100 nel 2018, per poi calare leggermente a 970 nel 2019. L'aumento negli anni è dovuto soprattutto alla progressione delle denunce e della capacità delle istituzioni di riconoscere certe azioni come discriminatorie. E in questo contesto si inserisce una nuova polemica, quella sull'intitolazione di una via veronese all'ex leader missino Giorgio Almirante. Una coincidenza che genera una gaffe e molte polemiche. Il Consiglio Comunale di Verona guida centrodestra con il sindaco Federico Sboarina intitola nello stesso giorno una strada a Giorgio Almirante, il fondatore del Movimento Sociale Italiano, e dà la cittadinanza onoraria a Liliana Segre, sopravvissuta ad Auschwitz. Accade lo scorso 16 gennaio con una delibera immediata e le reazioni del PD, che parla di doppio giochismo, di LeU e del Movimento 5 Stelle, che contestano l'intitolazione e la dichiarano incompatibile con i principi alla base dell'amministrazione comunale. Si premiano vittime e aguzzini, commenta il capogruppo di Sinistra e Libertà Michele Bertucco, che precisa anche come Verona sia città medaglia d'oro alla resistenza, e la senatrice Liliana Segre parla di scelta incompatibile con la sua cittadinanza onoraria per storia, etica e logica. Ma il sindaco Sboarina si difende, non vede problemi e parla di volontà d'andare avanti. Elisabetta Fiori, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Le parole di Liliana Segre a pochi giorni dalla giornata della memoria, il 27 gennaio, quando viene ricordata appunto la liberazione dal campo di Auschwitz, il più grande campo di concentramento nazista. E nel corso di questa puntata ci collegheremo proprio con la nostra inviata che è Auschwitz. L'allarme per il virus cinese: aumentano le persone colpite in Cina dal misterioso virus che ricorda la SARS. 6 morti, 70 nuovi casi, quasi 300 in tutto, secondo i dati di Pechino, sono le persone affette. Ma si teme siano di più, si allarga il cordone sanitario per far fronte al diffondersi del morbo. Domani ci sono riunioni straordinarie dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e dell'Unione Europea. Come all'epoca della SARS, tornano gli scanner all'aeroporto di Fiumicino per misurare la febbre ai viaggiatori che arrivano dalla città cinese di Wuhan, la città focolaio principale del coronavirus cinese. I primi a funzionare saranno quelli utilizzati per controllare passeggeri del volo diretto dalla città. Intanto si sono viste all'aeroporto mascherine per i viaggiatori cinesi, mentre gli occhi restano puntati sugli schermi dei smartphone per leggere le ultime notizie sulle informazioni diffuse dai ministeri. Crescono infatti le preoccupazioni fra chi deve andare in Cina. Wuhan, nel centro del paese, città con oltre 11 milioni di abitanti e con una sviluppata attività di scambi commerciali. Intanto c'è una certa ripercussione sulle borse asiatiche per questo allarme, e poi le autorità sanitarie degli Stati Uniti si apprestano ad annunciare a breve il primo caso in America del nuovo coronavirus. Così riferisce la CNN, sarebbe stato registrato nello stato di Washington, stando sempre a una fonte federale citata dalla CNN. Parliamo adesso di Libia, perché continua la mediazione internazionale. La NATO offre la sua collaborazione all'Unione Europea sull'embargo di armi alla Libia. A farlo sapere è il segretario generale dell'Alleanza Stoltenberg alla vigilia della riunione straordinaria del Comitato Europeo per la Politica e la Sicurezza, che venerdì avvierà il processo per la rimodulazione della missione Sophia, destinata ad essere profondamente rivista per indirizzarla proprio verso il monitoraggio dell'embargo di armi. A preoccupare intanto è anche il blocco delle installazioni petrolifere messo in atto dal generale Haftar. Il governo Sarraj accusa la Francia di voler impedire una dichiarazione di condanna dei paesi occidentali contro il nuovo colpo di mano dell'uomo forte della Cirenaica, mentre l'ambasciata americana a Tripoli ha intimato un'immediata ripresa delle attività petrolifere. Sulla crisi libica è intervenuto anche il presidente della Repubblica Mattarella in visita in Qatar. Non è possibile che in Libia si prenda il potere con le armi, ha detto il capo dello Stato, ribadendo che l'Italia sostiene Sarraj, ma è anche favorevole ad un dialogo con tutte le parti coinvolte nel conflitto per arrivare ad una soluzione pacifica. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Di nuovo in Italia parliamo di Cannabis Light, con un emendamento al mille proroghe. Una trentina di deputati del Movimento 5 Stelle, del PD, di LeU e di Più Europa ne chiede la liberalizzazione. Intanto arriva la notizia che la cannabis terapeutica sarà gratuita in tutta la Sicilia. In Sicilia, prima conquista per i pazienti che ricorrono alla cannabis per scopi terapeutici, che si vedranno rimborsare dalla regione le spese sostenute per l'acquisto dei preparati. Un decreto firmato venerdì scorso dall'assessore regionale alla salute Ruggero Razza prevede infatti la rimborsabilità a carico del servizio sanitario regionale. I farmaci a base di cannabis saranno gratuiti per i pazienti affetti da dolore cronico, neuropatico e da spasticità da sclerosi multipla che presentano, si legge, inadeguata risposta o intolleranza alle terapie convenzionali. La prescrizione del farmaco potrà avvenire solo sulla base di un piano terapeutico con durata massima di 6 mesi e dovrà essere redatta da medici specialisti dipendenti di aziende sanitarie pubbliche regionali. Per loro si stanno organizzando corsi di formazione che verranno effettuati dall'Ordine dei Medici in tutte le province siciliane. Il Comitato Pazienti Cannabis Medica parla di un grande passo avanti, anche se osserva molte patologie sono rimaste fuori e molto è ancora da fare per garantire il diritto di cura per tutti. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Bisogna parlare di un lutto nel mondo della cultura. È morto il filosofo Emanuele Severino, avrebbe compiuto 91 anni fra qualche giorno. Che cos'è l'uomo? L'apparire eterno del sopraggiungere senza posa degli eterni, dove il percorso costituito da questo sopraggiungere porta al tramonto di ogni forma di negazione, di scetticismo, di supponenza, di indifferenza rispetto a ciò che abbiamo chiamato destino. Considerato Emanuele Severino uno dei più grandi filosofi, scrittori, intellettuali del Novecento, fu sottoposto nel 68 a un processo dell'ex Sant'Uffizio che dichiarò la sua filosofia incompatibile col cristianesimo. Per il filosofo bresciano l'Occidente vive nel nichilismo, cioè nella convinzione che tutte le cose escono dal nulla e vi fanno ritorno. Parliamo di alcune notizie che riguardano la salute. Il 5% dei casi di tumore della vescica in Europa, 1 su 20, sarebbe collegato a prodotti chimici presenti nell'acqua di rubinetto, per un totale di 6.561 casi l'anno in 26 paesi del continente. Quanto stima uno studio pubblicato su Environmental Health Perspective, da cui emerge che concentrazioni massime dei contaminanti hanno superato il limite di 100 microgrammi per litro in 9 paesi. Inclusa l'Italia. Ricerche precedenti hanno trovato un'associazione tra cancro alla vescica e l'esposizione a lungo termine a un gruppo di sostanze chimiche chiamate trialometani, come il cloroformio, risultate cancerogene negli studi sugli animali che si formano come sottoprodotto indesiderato quando l'acqua viene disinfettata negli impianti. Per stimare l'entità del problema, i ricercatori di Barcelona Institute for Global Health hanno analizzato la presenza di sostanze chimiche nell'acqua potabile negli stati dell'Unione Europea tra il 2005 e il 2018, inviando questionari agli organismi responsabili della qualità delle acque nazionali. E poi questa notizia riguarda invece la scoliosi. Con un esame del sangue si può diagnosticare la scoliosi, quindi addio radiografie. A raggiungere questo risultato sono stati i ricercatori dell'Istituto di Ricerca Sanitaria La Fe di Valencia in Spagna, che sono riusciti a individuare alcuni marcatori specifici. In particolare, spiega Teresa Bass, capo dell'unità spinale dell'ospedale La Fe, i micro RNA che possono contribuire a migliorare la caratterizzazione dei pazienti. In questo modo una diagnosi può essere fatta attraverso un esame del sangue. Il kit è già stato testato negli adolescenti affetti da scoliosi. Quale differenza può portare una diagnosi di scoliosi del genere fatta attraverso un'analisi del sangue anziché attraverso radiografie? Un primo aspetto, dicono gli esperti, gli studiosi, è che va a trovare i primi sintomi della patologia. Vi aggiorno intanto sulla partita di Coppa Italia maschile che è in corso. Napoli-Lazio, per il momento in vantaggio Napoli per 1-0. E poi l'altra notizia riguarda Mario Balotelli: 2 giornate di squalifica e 10.000 euro di multa sono stati inflitti dal giudice sportivo di Serie A. Appunto, Balotelli espulso durante la partita Brescia-Cagliari per avere, si legge all'atto del provvedimento di ammonizione, indirizzato all'arbitro un'espressione irriguardosa accompagnata con plateale gestualità. Il provvedimento è il più severo tra quelli disposti in relazione alla 20ª giornata di campionato di Serie A maschile, che vedono altri 10 giocatori squalificati, ma tutti per una giornata. Bene, direi che su questo possiamo brevemente fermarci, così aggiorniamo invece che si sta muovendo su strade e autostrade. Tra poco allora cominciamo ad affrontare alcuni argomenti in particolare con gli ospiti, mentre dice Pietro, per esempio, tra la pagina Facebook e il numero per riflessioni, commenti, che è il 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, dice: per un'informazione seria volete affrontare anche le modalità percentuali, anche gli abbandoni avvenuti negli altri partiti? Adesso stiamo parlando comunque di questa legislatura, sicuramente ci sono anche negli altri partiti, però 31 nell'arco di 2 anni dall'inizio della legislatura, più o meno 2 anni e qualcosa, sono un po' tanti, ma ne parleremo tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Subito insieme, come avete visto, 60 minuti come sempre, ormai siete abituati dal lunedì al venerdì, dalle 21 alle 22, ricchi di aggiornamenti in diretta, sintesi della giornata, approfondimenti con gli ospiti e poi anche i vostri commenti che potete inviare o scrivere sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte o inviare tramite SMS e WhatsApp al 349-238-6666. Vi ricordo, se non avete acceso puntualmente alle 21, quali sono le notizie più importanti e poi ci soffermiamo prima di tutto sulla politica italiana. Il Forum dell'Economia Mondiale a Davos, sull'ambiente si contrappongono due mondi che non si parlano. Il presidente americano Trump attacca l'attivista Greta dicendo a lei, che ricorda che la casa brucia, cioè il mondo brucia, la terra, l'ambiente, no ai profeti di sventura, dice Trump, ed esalta la crescita economica dell'America. Per quanto riguarda la politica italiana, il nodo della prescrizione al centro del vertice di maggioranza e poi questa situazione, diciamo, piuttosto in bilico del Movimento 5 Stelle con altri due parlamentari che se ne sono andati oggi, così almeno hanno annunciato, e la posizione di Di Maio che tra poco approfondiremo. L'allarme per il virus cinese, c'è un caso negli Stati Uniti, controlli negli aeroporti, a Fiumicino uno scanner per la febbre, paura sui mercati. Aumentano i reati legati al razzismo, ne parleremo, ci collegheremo con la nostra inviata, è stata ad Auschwitz. Verona intitola una via a Giorgio Almirante, ex missino, ex leader dell'MSI, incompatibile con la mia cittadinanza onoraria, dice Liliana Segre. Cannabis terapeutica diventa gratuita in Sicilia, la regione si farà carico della spesa. E poi luto nella cultura, è morto a 91 anni Emanuele Severino, era considerato uno dei più grandi filosofi, scrittori e intellettuali viventi. Dopo il guazzabuglio di ieri con la decisione della Giunta per l'immunità di autorizzare il processo contro Salvini per il caso della nave Gregoretti, guazzabuglio perché per le tante tappe articolate di tutta questa vicenda che ieri vi ho riassunto proprio tappa per tappa, e con questo voto ieri tra maggioranza e opposizione che praticamente si sono invertite, hanno invertito i loro ruoli nel voto, la maggioranza ha disertato e quindi non ha votato, l'opposizione invece con la Lega in testa, in realtà il resto del centrodestra no, ha votato come chiedeva Salvini, cioè per l'autorizzazione a procedere nei suoi confronti. Sono colpi di scena continui in questa vicenda. Allora, oggi i principali piatti del menù della politica italiana. A proposito di piatti, in realtà Salvini ha annunciato ieri, ha lanciato un appello per un digiuno per quanto riguarda appunto questa decisione della giunta sulla nave Gregoretti, e ha detto ringrazio tutti, lo fa per protestare contro il fatto che lui continua a ritenere che non può essere processato per aver difeso i confini nazionali e la sicurezza del paese. Sentiamo infatti Salvini. Sono quasi 5.000 italiane e italiani che non conosco neanche in molti casi, che oggi digiunano, pensate un po', che oggi rinunciano alla colazione, al pranzo e alla cena, come segno di vicinanza e di protesta. Io con loro, ovviamente mi fa anche bene, così magari la Gruber non dirà più che sono un panzone, quindi oggi digiuno nel nome di un'Italia che deve avere il diritto di difendere i suoi confini. Intanto saluto la nostra Manuela Perrone del Sole 24 Ore, cara Manuela. Buonasera Roberta, buonasera a tutti gli ascoltatori. In realtà, a parte la Gruber, anche Borgonovo, che è direttore della Verità, diciamo un giornale orientato più verso centrodestra, oggi ha detto che farebbe bene a Salvini, dopo tutte queste mangiate in Emilia Romagna, nella sua campagna elettorale, un po' di digiuno. Che dice Manuela? Sì, farebbe bene a noi tutti un po' di digiuno dalla politica dopo questa ennesima scorpacciata alla campagna elettorale. Ma non si può, no? Non ci riusciamo. Non si può. Faraone di Italia Viva, Davide Faraone, ha detto l'autorizzazione a procedere o no, in un paese civile e democratico non è tollerabile che si promuova uno sciopero della fame di massa per affermare che un politico che ha consenso è al di sopra della legge. Che dici, Manuela? Allora, Salvini, per dimostrare che non è al di sopra della legge, poi ha chiesto ai suoi di votare per autorizzare il processo nei suoi confronti, però oggi poi lancia questa protesta con il digiuno. Insomma, diciamo una vicenda molto molto arzigogolata, e che abbiamo detto da entrambe le parti, opposizione e maggioranza, è stata usata un po' in modo strumentale, anche con tutti questi balletti sulla data o il fatto di disertare per quanto riguarda la maggioranza ieri la giunta per l'immunità, e dall'altra parte l'opposizione che invece vota a favore. Insomma, un grande miscuglio, Manuela. Però diciamo che dopo questo guazzabuglio i principali piatti, ecco, al di là del digiuno, del menù della politica italiana oggi riguardano il vertice di maggioranza, che dovrebbe essere ancora in corso sul nodo della prescrizione che divide la maggioranza, e poi le nuove dipartite all'interno del Movimento 5 Stelle che potrebbero mettere in pericolo la maggioranza. Cara Manuela, allora io direi di iniziare dalla riforma della prescrizione. Ti risulta che sia ancora in corso il vertice? Io non ho visto esiti finali o cose di questo tipo. Sì, anche se sembra acclarato che non ci sia un accordo, quindi non c'è assolutamente un'intesa tra le forze di maggioranza sulla prescrizione, che come era prevedibile anche questo nodo, nonostante Conte, il Premier, volesse portarlo a compimento per dare un segnale di compattezza prima delle elezioni in Emilia e in Calabria, anche questo nodo invece è rimandato a dopo il test elettorale. Manuela, spiego brevemente la prescrizione, l'abbiamo detto tante volte, qui l'abbiamo spiegato, e sarebbe, diciamo, la data di scadenza di un processo, perché si dice in Italia durano all'infinito, ci vuole una scadenza, cioè quando va oltre un certo tempo basta, perché altrimenti una persona che sia colpevole o innocente non può avere mai giustizia. Allora, uno dei cavalli di battaglia del Movimento 5 Stelle è quello della riforma della prescrizione, dell'abolizione della prescrizione. In realtà, diciamo, la prima mediazione è stata quella di dire dopo il primo grado di giudizio, quando c'è la prima sentenza, insomma, lì questa clessidra che va, si ferma e quindi il processo va avanti quanto deve andare. È una norma, la norma buona fede è già in vigore, perché dal 1 gennaio del 2020, certo, ovviamente è entrata in vigore la norma che era stata approvata dal governo giallo-verde, che prevedeva lo stop della prescrizione in caso di sentenza di primo grado, sia di assoluzione sia di condanna. Infatti, però l'opposizione dall'inizio è contro, dice incostituzionale, certo, lede il diritto dei cittadini, eccetera, e però anche all'interno della maggioranza ci sono posizioni diverse. C'è il Partito Democratico che cerca di trovare una mediazione, un compromesso, mentre Italia Viva da un po' che mira un po' allo strappo, no? Dicendo anche stasera, Renzi ha detto lede lo Stato di diritto, riformiamo l'intero processo penale. Sì, sì, perché Renzi è contrario addirittura anche alla proposta di mediazione, al famoso Lodo Conte, cioè quella, sì, secondo cui la prescrizione può fermarsi soltanto in caso di sentenza di condanna di primo grado e non in caso di sentenza di assoluzione. Quindi le posizioni sono molto distanti ancora, nonostante appunto il PD abbia voglia di trovare un accordo, ma il problema è che martedì prossimo arriverà in aula la proposta di legge di Enrico Costa di Forza Italia, che è la stessa proposta di legge che di fatto demolisce la riforma Bonafede e che Renzi in Commissione Giustizia alla Camera ha già votato insieme alle opposizioni. Sì. Quindi se martedì in aula alla Camera dovesse ripetersi lo stesso scenario, il risultato sarebbe quello di affossare la riforma dei 5 Stelle e di vedere una parte della maggioranza che vota insieme alle opposizioni per un disegno di legge che tra l'altro è targato Forza Italia. E questo, diciamo, che creerebbe una serie di fibrillazioni e di squilibri proprio a pochi giorni dalle elezioni regionali in Emilia Romagna e in Calabria, no? Si sa che quelle in Emilia Romagna, poiché è governata da 70 anni dal centrosinistra, sono le più cruciali. Il problema è che questa votazione arriverebbe dopo il test dell'Emilia, perché parliamo della prossima settimana. Ah, certo, certo. In realtà, certo, perché domenica, che volevo dire, sì, già dall'inizio, è che noi siamo in una situazione completamente sospesa e congelata, in cui ogni nodo politico è stato di fatto rinviato a dopo le elezioni, e siamo in una situazione di grandissima incertezza sul risultato. E quindi di anche su voto, questo, benché Renzi abbia detto può essere Lodo Conte che fa della distinzione tra chi è il primo grado è stato condannato o risultato innocente, dice viola comunque i principi, esatto, costituzionali, però uno strappo vero e proprio forse non conviene a nessuno prima delle elezioni non conviene a nessuno, dopo le elezioni chissà. Invece Manuela, per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, no? Oggi è arrivata la notizia che altri due deputati lasciano il movimento. Sono Michele Nitti e Nadia Aprile che hanno chiesto di formalmente di entrare nel gruppo misto a Montecitorio, no? Nadia Aprile spiega questo suo addio parlando di metodi intollerabili all'interno del movimento e di una inesorabile deriva autoritaria. Fonti del Movimento 5 Stelle hanno replicato dicendo non sia lei che Nitti non rendicontavano, cioè non ridavano indietro, insomma, quella parte di stipendio che il Movimento 5 Stelle si impegna dall'inizio a dare, andavano verso provvedimenti disciplinari. Insomma, però bisogna dire che ci sono a questo punto, con questo passaggio anche di Nitti e di Aprile al gruppo misto, sono 31 dall'inizio della legislatura i parlamentari del Movimento 5 Stelle che per un motivo o per un altro hanno lasciato il movimento. Che sta succedendo, Manuela? Tra l'altro pare che domani, stavo guardando, sì, Di Maio è la vera notizia. Vede i suoi ministri, perché ci sono rumors, si dice, su un possibile passo indietro da capo politico, no? Che è un po' la sua leadership che è messa un po' in discussione. Assolutamente sì, intanto dei 31 che tu giustamente hai citato, bisogna notare che sono 13 quelli usciti soltanto negli ultimi due mesi, tra l'espulsione di Gianluigi Paragone e gli addii spontanei, quindi negli ultimi due mesi c'è stata un'accelerazione di questo terremoto, di questa diaspora dal Movimento 5 Stelle, che è una diaspora legata a tanti motivi. Da un lato c'è una protesta che è montata dentro il movimento contro la leadership di Luigi Di Maio e anche contro l'invadenza della piattaforma Rousseau di Davide Casaleggio. Dall'altra parte c'è un problema legato al sistema delle restituzioni, perché effettivamente sono una trentina, 35 parlamentari che potrebbero incorrere in provvedimenti disciplinari da parte dei propri viri, perché si sono rifiutati di versare il dovuto, quindi di restituire, oppure sono in ritardo con i versamenti. In generale è una situazione che ha messo Di Maio sotto assedio. Già. Le indiscrezioni su un suo possibile passo di lato da capo politico del movimento si rincorrevano da settimane. Oggi ha stupito anche molti dei suoi l'accelerazione. Molti si stanno domandando come mai annunciare le dimissioni prima delle elezioni in Emilia-Romagna e in Calabria. Allora, aspetta, lasciaci con un po' di suspense, Manuela, perché intanto voglio far sentire Dinca, del ministro del Movimento 5 Stelle, e che cosa dice sui grillini passati al misto. Erano, diciamo, possibili persone che potevano passare al gruppo misto. Io credo che chiaramente la nostra stretta sul termine delle rendicontazioni abbia prodotto, insomma, in qualche maniera qualche movimento di alcune persone che sono passate al misto. Però ripeto, anche sinceramente vedo una maggioranza molto solida, sia alla Camera che al Senato, e non vedo preoccupazioni. E sulla tenuta della maggioranza, cioè principalmente Movimento 5 Stelle, Partito Democratico, ma poi Italia Viva e LeU, sentiamo anche Fraccaro, sempre del Movimento 5 Stelle, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Ogni due mesi mi dicono che crolla tutto, quindi ormai non ci penso più. Anche il Movimento 5 Stelle ogni due mesi dicevano che era finito il movimento e poi abbiamo fatto quello che abbiamo fatto. Beh, siamo in una fase importante, siamo in una fase di transizione. Oh, e sentiamo ancora Dinca, sempre del Movimento 5 Stelle, a proposito di un possibile ticket di cui si era parlato fino, insomma, qualche ora fa, come capi politici, ticket tra Di Maio e la sindaca di Torino Appendino. Credo che noi avremo un momento importante di confronto sugli stati generali e lì riusciremo a comprendere in quale maniera strutturare al meglio il movimento. Fino ad oggi abbiamo fatto un ottimo lavoro, si vedono importanti risultati al governo e sicuramente potremo solo che migliorare. In questo momento non escludo nulla, ripeto, sarà un momento di grande confronto, di collegialità, e andremo verso questa direzione. Allora, dice per esempio un ascoltatore con ironia il famoso vincolo di mandato dei 5 Stelle, poi un altro ascoltatore che dice non c'è da stupirsi che abbandonino il Movimento 5 Stelle, nella loro Costituzione hanno aperto le porte, cani a porci, dice, ora hanno costruito i presupposti per i loro interessi, si prestano a tutto e vabbè, dice che tradiscono, insomma, i loro valori iniziali. Ma allora stracciamo questa suspense, Manuela Perrone, e dici perché proprio a due passi dalle elezioni regionali così importanti Di Maio accelera sul possibile passo indietro. Allora, ci sono diverse interpretazioni che stanno circolando. Una è che voglia affrontare la probabile debacle del Movimento 5 Stelle alle regionali, perché nessuno si aspetta naturalmente una vittoria vista la decisione di correre in solitaria sia in Emilia-Romagna sia in Calabria, che voglia in qualche modo dare un segnale preventivo anche di dissenso rispetto alla scelta che è stata fatta, perché Di Maio, il parere di Di Maio era quello di non presentarsi a queste elezioni locali, e contro il suo parere sulla piattaforma Rousseau gli iscritti avevano invece deciso di correre. Quindi dimissioni, diciamo, preventive per condividere la responsabilità della sconfitta all'indomani del voto con il resto del partito. Ci sono però altre interpretazioni più maliziose. Una è quella che vuole Di Maio tenersi, diciamo, vuole vedere Di Maio tenersi le mani libere all'indomani del voto. Capire che cosa succederà in particolare in Emilia Romagna se terrà Bonaccini, e quindi il PD, rafforzando in qualche misura la tenuta del governo nazionale, oppure se invece trionferà la Lega di Matteo Salvini, aprendo a quel punto scenari veramente imprevedibili. E Di Maio, leader dimissionario del Movimento 5 Stelle, potrebbe traghettare verso gli Stati Generali di marzo il partito, e a quel punto a marzo il partito dovrebbe poter scegliere con più decisione l'area in cui militare, e cioè se aprire, entrare in quel fronte progressista largo insieme al PD, come chiedono molti ministri dei 5 Stelle, ricordiamoci, no, Stefano Patuanelli, lo stesso Vinca che abbiamo sentito prima, oppure rimanere ago della bilancia, come ama ripetere Di Maio, e quindi non chiudere la porta a un'eventuale nuova alleanza con la destra. E forse, come dice qualche ascoltatore, proprio questo problema di identità, di non avere un'identità certa, ben definita, qualcuno dice un partito che ha tradito se stesso, dice per esempio Massimo. Comunque sulla tenuta di la forza del movimento, l'identità liquida, ma poi trovandosi catapultato nella dimensione di partito di massa con oltre 300 parlamentari da guidare, da tenere compatti, sta mostrando segni di cedimento, di debolezza. Allora, per quanto riguarda la tenuta del governo, insomma, sentivamo prima Fraccaro che dice non c'è nessun problema, però è chiaro che se Di Maio facesse un passo indietro da capo politico, un po' di sommovimento ci sarebbe nel movimento, scusate il bisticcio di parole, e a quel punto appunto si devono capire da che parte stare, diventa ovviamente, può entrare in crisi anche la stessa tenuta della maggioranza. Sentiamo Zingaretti che cosa ha detto in questa anticipazione della registrata di Porta a Porta di questa sera. C'è un governo, bisogna assumersi le proprie responsabilità, e queste responsabilità sono portare avanti un programma che in primo luogo riaccende l'economia italiana, pensa alla crescita e allo sviluppo, anche perché abbiamo di fronte gli appuntamenti internazionali che segnano, possono segnare crisi drammatiche. Dice Zingaretti, sì, prendiamoci responsabilità, però insomma qui c'è anche del tatticismo, ci sono crisi delle forze politiche interne, eccetera. Manuela, tu ti vuoi prendere la responsabilità di dire qual è secondo te l'ipotesi più fondata, più... Non me la prendo la responsabilità, perché dopo che abbiamo vissuto l'estate che abbiamo vissuto, dove tutto è stato possibile, il contrario di tutto e tutto quanto, Vabbè, dici, meglio di no, perché qui è veramente un'acrobazia, un circo continuo. Va bene, grazie Manuela Perrone, a ben presto. Grazie a voi. Ciao, grazie, buona serata, buon lavoro, Sole 24 Ore. Ora ci fermiamo brevemente per prendere una pausa di respiro e di riflessione, voi continuate con la pagina Facebook di Effetto Noto, oppure al 349-238-6666. Pagina Facebook, Silvia dice, beh, è difficile giudicare del perché di queste diaspora del Movimento 5 Stelle, dice potrebbe trattarsi di semplice opportunismo o di una scelta ragionata e sincera, chi può dirlo, solo le future scelte poi scioglieranno questo rebus. Mentre Pietro dice, non ho elementi per giudicare, ovvero un'opinione precisa, ma sicuramente, dice, il Movimento secondo lui è stato un flop, mentre qualcun altro maliziosamente dice non volevano restituire i soldi perché negli altri partiti ti prendi 15.000 euro senza problemi. Bene, fermiamoci per pochi istanti, torno ratta come la folgore. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, per onestà vi devo avvisare, questo è un programma che dà dipendenza, parola di Roberta Giordano che vi accompagna tutte le sere in questa sfida di raccontarvi in 60 minuti lordi quello che di più importante c'è da sapere dall'Italia e dall'estero, per poi approfondire alcuni argomenti per dare chiarezza e profondità insieme agli ospiti. Abbiamo parlato della politica italiana, della mediazione che si sta cercando nella maggioranza di governo sulla riforma della prescrizione, mediazione ancora lontana e probabilmente vediamo a cosa si arriva dopo le elezioni regionali di Emilia-Romagna e Calabria, che ci sono il 26, e poi anche questo travaglio profondo del Movimento 5 Stelle con altri due parlamentari che hanno deciso di abbandonare il movimento oggi, in tutto dall'inizio della legislatura sono 31, e poi Di Maio che ha annunciato che nelle prossime ore vedrà i suoi ministri perché potrebbe fare come capo politico un passo indietro. Staremo a vedere. Adesso però ci concentriamo su quello che sta succedendo in Svizzera, dove c'è il Gotha della finanza e dell'economia. I'm proud to report the United States is among the cleanest air and drinking water on earth, and we're going to keep it that way. And we just came out. E naturalmente la 50ª edizione di Davos o Davos in Svizzera non poteva mancare il presidente dello stato più potente del mondo, dell'America, Donald Trump, al World Economic Forum, al forum mondiale sull'economia, dove i grandi potenti decidono, insomma, il corso appunto delle nostre vite, dell'economia, quindi della finanza, e chiaramente anche di dove va le nostre vite. E qui in questo passaggio Trump diceva la nostra acqua è tra le più pulite secondo gli ultimi dati, l'acqua americana negli stati americani, e poi noi ci teniamo all'ambiente, ha annunciato anche vari piani eccetera. Questo perché tra l'altro proprio in questa edizione si sono affrontati due mondi opposti che difficilmente riescono a comunicare, anzi diciamo sono due muri uno contro l'altro: da una parte il presidente americano Trump, dall'altro la sedicenne attivista Greta Thunberg, ormai famosissima in tutto il mondo per i venerdì per l'ambiente e per le sue denunce contro un capitalismo sfrenato e la poca attenzione che c'è, insomma, a una economia e una finanza sostenibili. Su questo coinvolgo subito Stefano Carrera, inviato a Davos o Davos, com'è che si dice? Ogni tanto ci chiediamo tutti, bisogna dire Davos o Davos, Stefano? Sì, più Davos, però più Davos, diciamo Davos, alla francese. Ormai è una città internazionale, diciamo, quindi si parla di... Quindi in modo, diciamo, anglosassone, Davos. Esatto. Diciamo. Ma, allora, dicevo che appunto c'è stato questo scontro a distanza tra Trump e Greta, quindi tra due visioni del mondo e anche tra due generazioni, no Stefano? Sì, assolutamente. E, tra l'altro volevo sottolineare che il passaggio che avete fatto sentire in realtà è stato proprio nel finale della oltre mezz'ora di discorso di Trump. Sì. In realtà era sembrato piuttosto marginale, cioè lui in mezz'ora di discorso non ha assolutamente parlato di ambiente. Poi alla fine ha detto questa cosa, insomma un po' così. Di fatto si sono scontrate queste due visioni. E diciamo, la sensazione è che abbia prevalso Trump su Greta. Perché? Perché praticamente Trump ha voluto proporsi come incarnazione e propulsore di ottimismo. Ha detto basta con il pessimismo, basta con i profeti di sventura e così via. Mentre la povera Greta stamattina, già fin dall'inizio, nel primo panel con la quale aveva partecipato, ha detto sì, io stessa stupita di come il mio sciopero scolastico si sia diffuso nel mondo fino a favorire associazioni di giovani ambientalisti e una maggiore consapevolezza tra i giovani, così, ma alla fine tutto questo non serve a niente, non è servito a niente. Perché? Perché le emissioni stanno ancora salendo, sono salite ancora nel 2019 e quindi nessuno sta facendo nulla, dice. Io parlo, quindi, diciamo, sicuramente c'è attenzione da parte dei giovani, sembra che ci sia nuova consapevolezza, ma insomma con scarsi risultati. Poi Stefano Carrer, lo dicevi giustamente tu, che Trump, diciamo, ha riservato solo una parte finale marginale del suo lungo discorso, perché in realtà è sembrata la sua, diciamo, una parte della sua campagna elettorale per le presidenziali che ci saranno a fine di quest'anno, no? E quindi ha esaltato la crescita economica dell'America. Sì, non solo, diciamo specificamente, è sembrato un po' come l'inizio della campagna elettorale, perché non ha solo esaltato il fatto che i mercati azionari sotto la sua amministrazione sono al record storico, che l'economia non è mai andata così bene, che la disoccupazione è a minimi storici, e che l'attrattività dell'America come destinazione di investimenti stranieri è al top e così via. Ma ha detto e ha insistito anche parecchio su questo punto che sotto la sua amministrazione sono migliorate anche le condizioni delle fasce deboli della popolazione, comprese specificamente afroamericani, donne, così ha parlato di maggiore occupazione, di salari più alti, di maggiore partecipazione al mondo del lavoro. Come dire, questo mio approccio è quello vincente. E così come ha parlato molto contro il multilateralismo, esaltando questo suo approccio America First con prima gli americani bilaterali, quindi diciamo tutto contro quello che doveva essere diciamo l'impostazione, il tema del forum di Davos di quest'anno, perché non dimentichiamoci che il fondatore Klaus Schwab ha mandato una lettera a tutti i partecipanti il primo giorno cioè il giorno prima dell'avvio del forum, firmata, cofirmata dal CEO di Banca America e del gruppo chimico olandese DSM, raccomandando a tutti i leader delle aziende che partecipano al forum di fissare un obiettivo di emissioni zero nel 2050 al massimo o anche prima, per affrontare quello che viene definito come urgenza, cioè una questione globale urgentissima, quindi da affrontare in modo multilaterale. Arriva Trump e dice: va tutto bene con il mio approccio, che se ne frega del multilateralismo e diciamo sottostima i cambiamenti climatici. Quindi Stefano, però un ascoltatore o ascoltatrice, perché non si firma, dice: Trump ha parlato di un programma di piantare un trilione di alberi, secondo i calcoli delle organizzazioni ambientaliste sarebbero esattamente gli alberi necessari per raggiungere la carbon parity, ma voi non ne parlate, non ce ne parli, credi, no, di questo, allora, trilione di è alberi. È una cosa che magari è stata riportata in maniera approssimativa da alcuni siti web. Semplicemente Trump, per lisciare il fondatore Klaus Schwab nel 50° anniversario del WEF, alla fine ha concluso su questo dicendo: va bene, mi associerò a questa idea che non è sua, di Trump, che non sarà in America, ma è stata lanciata da Schwab, il fondatore del WEF, con delle altre, un paio di agenzie diciamo ambientaliste, che hanno deciso di lanciare un'iniziativa globale per piantare 1.000 miliardi di alberi, o comunque rigenerarli, insomma, così, nell'arco di 10 anni. E semplicemente Trump ha detto: va bene, mi associo a questa iniziativa che non è sua e che non riguarda solo l'America. Ecco, è solo una roba che, diciamo, una volta diciamo schiaffeggiato il fondatore del World Economic Forum, quello che avrebbe voluto, insomma, che avrebbe desiderato, insomma, Schwab, praticamente gli ha dato il contentino. Ma non è che Trump ha deciso: io pianterò un trilione di alberi. Bisognerà vedere quello che sarà il commitment, perché Chiaro. È una cosa a lungo termine e che non dipenderà comunque da Trump, neanche se verrà rieletto, perché è una cosa che va oltre i 4 anni. Quello che però c'è da dire, se posso aggiungere, ecco, questo è molto, mi sembra molto interessante, sì, è che mentre quando è arrivato 2 anni fa, all'inizio della sua diciamo strategia di tagli dei tassi, unilateralismo commerciale e così via, la platea di Davos era piuttosto preoccupata, no? Invece, visto che i mercati sono andati meglio del previsto, l'economia è andata meglio del previsto, non ci sono stati sconquassi anche con questo unilateralismo americano, è chiaro che i banchieri e i grandi imprenditori, diciamo, per quanto possano essere più consapevoli del problema dei cambiamenti climatici, pensano anche ai soldi. E quindi sembrano neanche spaventati all'idea che Trump possa essere rieletto. Non avevamo molti dubbi. Una vittoria per Trump. Grazie Stefano Carrer da Davos. Ciao Stefano, buon lavoro. Buon lavoro. Viabilità. Buonanotte. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Siamo a pochi giorni dalla giornata della memoria che ricorda le vittime del nazismo e in particolare appunto i 6 milioni di ebrei che sono stati sterminati, e proprio di oggi sono i dati dell'OSCA, dell'Osservatorio Interforze per la Sicurezza contro gli Atti Discriminatori in Italia, che dice che il paese che ha approvato le leggi razziali nel 1938 è ben lontano purtroppo dall'aver imparato la lezione, ancora incapace di accettare il diverso e di trovare una soluzione che fermi l'odio che dilaga sul web e nella società. Se è vero infatti che nel 2019 si sono registrati 969 reati che hanno a che fare con il razzismo, identità di genere e disabilità, il 12,7% in meno rispetto ai 1111 del 2018, è altrettanto vero che i numeri sono di gran lunga superiori ai reati del 2016, quando si registrarono 736 crimini di questo tipo. A questo proposito ci colleghiamo con la nostra inviata in Polonia ad Auschwitz, Raffaella Calandra. Ciao Raffaella. Ciao Roberta, sì, ai nostri ascoltatori. Sapete che Auschwitz fu il più grande centro di sterminio del regime nazista, quindi naturalmente sempre a questo nome si associano cose terribili, terribilmente inquietanti. Raffaella, tra l'altro, che cos'è questa musica di sottofondo? È musica composta da musicisti ebrei che ad Auschwitz sono stati uccisi, musica che oggi è stata suonata da una pianista all'interno di uno dei treni della morte lungo i binari che portavano appunto ad Auschwitz, Birkenau, migliaia e migliaia di ebrei per essere uccisi, e questa è stata una delle prime commemorazioni di una settimana che culminerà appunto lunedì prossimo nella commemorazione generale del giorno della memoria del 27 gennaio. Oggi qui, insieme alla vicepresidente del Parlamento europeo, a sopravvissuti, a rappresentanti della European Jewish Association, si è voluto diciamo anche ricordare tra gli altri anche appunto i musicisti che sono stati uccisi ad Auschwitz, ma soprattutto si è voluto ricordare, come hai anticipato anche tu, quanto ancora oggi l'antisemitismo sia diffuso in tutta Europa, tanto circa la metà degli ebrei presenti in Europa denuncia di sentirsi insicuro nel nostro continente. Molti sono anche partiti verso Israele, soprattutto dopo l'attentato di Halle, e questa sensazione di insicurezza, di odio verso gli ebrei, verso i diversi, ha tante sfaccettature che ricadono anche nel linguaggio d'odio che continua ad essere utilizzato a moltissime sfere, compresi i social. E tra l'altro oggi il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, ha detto: il demone dell'antisemitismo ritorna, bisogna agire, preoccupa che lezioni della storia vengano dimenticate. Proprio per questo invece il presidente della Repubblica Mattarella ha detto: la memoria è il vaccino contro l'antisemitismo, solo che naturalmente sappiamo quanto svanisce facilmente e velocemente la memoria. Grazie Raffaella Calandra. Volevi aggiungere qualcosa da Auschwitz? No, volevo soltanto aggiungere che appunto mentre ci sarà a Gerusalemme questo impegno proprio sul ricordo e nella lotta all'antisemitismo, la memoria è da sempre proprio l'impegno dei sopravvissuti, quello di tramandare la lezione della storia e soprattutto l'insegnamento della memoria, perché possa essere declinato nella lotta all'odio in tutte le sue forme di oggi e mai in nessun altro luogo come questo. Il buco nero della coscienza europea lo insegna, lasciando il freddo che si prova entrando in questi luoghi e provando e guardando, toccando con mano diciamo lo sterminio che è avvenuto 75 anni fa. Grazie Raffaella Calandra. Ciao Raffaella. Grazie Roberta. Ciao. Un po' di serenità con Dario Ricci per quanto riguarda il calcio maschile, Coppa Italia. Chi c'è in campo, Ricci? Ciao Dario. Buonasera cara Roberta. Napoli e Lazio sono al 48esimo di gioco al San Paolo in questo primo quarto di finale, quindi ripresa appena iniziata, ma Napoli è in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Insigne al terzo minuto di gioco, splendida la serpentina del capitano partenopeo a beffare prima Luis Felipe e poi il portiere biancoceleste Stracoccia. Ma primo tempo in cui ne so veramente capitate tantissime, perché al settimo minuto Lazio, che ha la possibilità di pareggiare, c'è il fallo in area di rigore di Yusa, il difensore esterno destro del Napoli, su Caicedo. Ammonito Yusai, e dato che fra poco diventerà rilevante in questo mio breve racconto, sul dischetto va Immobile, che incredibilmente scivola, quindi ne esce fuori un tiro sbilenco che supera la traversa della porta di Ospina, e Napoli che si salva. Al 19esimo però Yusai, appunto già ammonito, compie un altro fallo proprio sullo stesso Immobile, fuori dall'area questa volta, ma viene però espulso dall'arbitro Massa che... sventola poi al 24esimo il cartellino rosso anche di fronte al laziale Lucas Leiva, che prima era stato ammonito per un fallo, poi aveva veementemente protestato e quindi espulso per proteste. Sintesi di tutto di questa cronaca: Napoli in vantaggio per 1-0 ed entrambe le squadre in 10 uomini con quel tiro sbilenco. Grazie Dario Ricci, ciao caro Dario, buona partita, noi ci aggiorniamo brevemente alle 22.